dimmi se dovrei giocare a Penalotto o al Totin, se va bene al Totocalcio, se devo avere qualche calcio, dimmi cosa devo fare, ai mi batto il corazon, devo stringere la cinghia, ho perdo pure i pantalon, voglio fare tanti soldi, tutti... Tranquilli, tranquilli, sono sempre io, DJ Prisma, non mi sono impazzita. Ho solo voluto cominciare la puntata in modo un po' scherzoso, scegliendo un brano così di un po' trash di Leone di Lernia per scherzare su un argomento, i soldi, che sarà il tema di questa puntata. E sì, perché come avrete intuito sono anch'io una precaria tra tanti, quasi trentenne, e sto cercando insomma di combattere la mia personale lotta contro il precariato. E voi? Li avete già persi i pantalon? Beh, io quasi, ho rischiato di perderli più volte, a volte inseguendo sogni che poi alla fine erano legati ad ambienti un po' elitari in cui bene o male o già sei coperto alle spalle dalla famiglia, altrimenti rischi di fare l'apprendista a vita fino a 40 anni, continui a insistere per, diciamo, per portare a compimento un progetto di vita e poi ti accorgi che sei circondato da persone che per carità anche il talento ce l'hanno, però spesso ecco non hanno quelle necessità così stringenti di mantenersi come magari possono avere le persone, la maggior parte delle persone. E quindi capita che decidi che è ora che ti rimbocchi le maniche e cominci da capo. E il sogno non è che lo butti via, però lo tieni lì nel tuo cassettino o nella tua tasca e decidi che se ne varrà veramente la pena, vi rincontrerete. Quindi diciamo è un amore che rimane un po' così, un po' sospeso per via di un semplice desiderio, questo. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita. Perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, sei perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta, hai messo le paga, siamo, ma tu usa la verdura qua quando costa, a costa troppo, no, non si può fare, non si può fare, non è così. È la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata, l'evento microcosmico di minima portata, una mancia ricevuta, una cena regalata, e con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestito di seta, di festa, magari fare quattro salti in vista, te gusti, ma forse è meglio se rimani là. Se potessi avere, se potessi avere 1.000 euro al mese, 1.000 euro al mese, senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità, tutta la felicità. Una casettina, una casettina in periferia, in periferia, moglie Tina, una moglie Tina, giovane carina, dalle quale comandei, se potessi avere, se potessi avere, mille euro, tanto. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Che problema Ma allora, ma che cacchio di lavoro fai? In effetti, la puntata precedente su Analogico Perplesso di Bach è uscita fuori una canzone selezionata dall'artista che si chiama Supermarket di Battisti, che io non conoscevo e che ho apprezzato moltissimo. Allora Bach, in un commento di risposta a un mio commento precedente, ha detto: beh sì, in effetti hai fatto un po' intuire che bazzi quell'ambiente lì. Io continuo a farla vaga, però rispondo con questo brano. Faccio no, a parte gli scherzi, diciamo che mentre all'inizio un po' mi barcamenavo un po' disperata, ah, perché c'ho il titolo di studio, ah, la laurea, ma cosa vado a fare io qua, dopo tante batoste alla fine arrivi a un punto che dici: ma chi se ne strasbatte del titolo di studio, nel senso, no, che uno ci sputa sopra, per carità, però dici, accetti anche dei lavori che non c'entrano un figo ma con un'altra ottica, nel senso, mentre prima li prendi per disperazione, arrivi a un certo punto in cui ti costruisci un tuo progetto di vita e dici no, porca miseria, adesso io mi faccio un mio piano e questo lavoraccio che non mi piaceva, che schifavo, adesso mi serve, quindi sono io che lo faccio volutamente. E la gente, ah, ma non ti trovi qualcosa di meglio, ah, ma sei laureata, ma che fai, studia, fatevi un pacchettino dei cacchi vostri, eh. Questo per rispondere un po', sai, alle classiche domandine tipo che tempo fa oggi, che lavoro fai, eccetera, eccetera. Non riferito a voi, parlo della gente che magari incroci mentre fai questi lavoretti e che ti fa queste domande a bruciapelo, non sapendo che va magari a intuzzicare, no? Come si dice sempre a Roma, in punti deboli. Comunque no, sì, il supermercato è un ambiente che ho bazzicato, che ogni tanto bazzico, e mi è capitato di sentirmi così. Dopo Lost in the Supermarket dei Clash ci sta proprio tutta, un God Save the Music, altro che Save the Queen, come cantava un altro gruppo punk. Ma vorrei a questo punto leggervi un estratto da un libro di Barbara Ehrenreich, un'americana che ha scritto una paga da fame, come non si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo. Lei è una giornalista che scrive su Time, Harper's Magazine, The Nation e The New York Times Magazine. Per un periodo della sua vita ha voluto sperimentare in prima persona la vita dei poveri che lavorano, così vengono chiamati, e quindi ha lavorato come cameriera, come donna delle pulizie, per sperimentare veramente i problemi nel cercare una casa, nel trovare un lavoro, gli orari, i turni massacranti. E scrive questo: i poveri che lavorano sono in realtà i grandi benefattori della nostra società. Trascurano i propri figli affinché i figli degli altri siano accuditi. Abitano in alloggi schifosi affinché le nostre case siano splendenti e perfette. Sopportano ogni privazione pur di mantenere bassa l'inflazione e alte le quotazioni in borsa. Agli occhi del resto del mondo, un povero che lavora è un donatore anonimo, un filantropo sconosciuto. Deve esserci qualcosa di storto, di profondamente storto nella società. Se una persona, in buona salute e senza carichi familiari, inoltre munita di un proprio mezzo di trasporto, può a stento sopravvivere con il sudore della fronte. Non occorre una laurea in economia per capire che i salari sono troppo bassi e gli affitti troppo alti. Il problema degli affitti è di immediata comprensione anche per una persona digiuna di economia, anche per un lavoratore a basso salario quasi analfabeta. È il mercato, bellezza. Quando i ricchi e i poveri competono per gli alloggi sul libero mercato, i poveri sono battuti in partenza. I ricchi possono sempre fare un'offerta più alta, comprarsi tutto il palazzo o tutto il campeggio delle roulotte dove abitano i poveri e trasformarli in condomini e residenze di lusso, in campi da golf o qualsiasi cosa salti loro in mente. Poiché i ricchi sono aumentati di numero, grazie soprattutto ai crescenti guadagni in borsa e al fior di stipendi dei dirigenti, inevitabilmente i poveri sono stati ricacciati in alloggi sempre più costosi, sempre più degradati, sempre più lontani dal posto di lavoro. E questo sembra un ritratto poi del nostro amato bel paese. E non sembrerebbe scritto invece da un'americana. E calcoliamo che si trattava del 2001. Ora siamo nel 2009 e la situazione è praticamente speculare. Vi consiglio insomma di leggerlo, Una paga da fame, pubblicato da Feltrinelli. Bene, dopo questa botta di ottimismo, sentiamoci un buon vecchio Springsteen che non fa mai male. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down. degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Ad esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? E immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è reversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire. Senza benzina o gasolina, soltanto 1 litro in cambio ti do, Cristina. Se vuoi la chiudo pure in monastero, ma dammi 1 litro di oro nero. sempre appresso all'ando. Ambo terno con vole cinquina, se vinco mi danno un litro di benzina. C'è sempre una donna che t'aspetta, sdraiata sul cofano all'autosalone, e ti dice: prendimi, ma schiaccio libidinoso, coglione. Scaldamento centralizzato, più ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita al sultano. Cos'altro c'è da aggiungere a questa Spendi, Spandi e Fendi di Rino Gaetano? Assolutamente niente, ed è un brano del 77 che dice tutto e sembra essere scritto oggi, come tante delle sue canzoni. Invece il signore che avete sentito prima della canzone, è Silvano Agosti, un regista. Intervista, in realtà ho inserito la mia voce così per giocare. In realtà la conoscerete in tanti. Io l'ho conosciuta personalmente per la prima volta ascoltandola su Radio Rock in una trasmissione di Vince Foster, ma mi sembra che la voce che io ho sostituito nel trucco di montaggio era di Fabio Volo, se non vado errata. Riflessioni insomma sul mondo del lavoro che, per carità, per quanto utopistiche, per quanto sognatrici, però ho sentito molto mie sin dalla prima volta che ho ascoltato l'intervista. E bisognerebbe, ecco, cercare di tenersene bene a mente, cercare nel nostro piccolo di scavarci una nostra nicchia in cui poter essere noi stessi, pur con le dovute difficoltà, per poter comunque poi campare, diciamo, che brutta parola, vivere, definitivamente vivere. Tardi, oro, non ti ho mai.

fino all'inferno lo seguirò. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. Beh, diciamo che la ricetta di Spugna non è proprio la più auspicabile, però è una ricetta e come tale, insomma, ognuno poi nella sua vita fa quello che vuole. Ma poi alla fine questi soldi, ma che ci dobbiamo fare, insomma, alla fine, no? I soldi non fanno la felicità. Siamo sicuri? Sentite qua. Chi non lavora, se non fa amore, tutti insieme, questo l'ha detto. Stavo ritornando, sul tavolo da pranzo c'era solo pasta in bianco. Mi chiamo Franco e abito in Borgata, una macchina usata e una casa affittata. Vada in lotta io per la pagnotta, con la mia donna sempre in bancarotta. Strano, se qualcuno è miliardario, sotto sotto poi c'ha buffi con l'erario. Ostacolato nella cosa più importante, la coppia scoppia se la vita è costante. Amo la vita, madre e padre e figlia, ma senza lavoro come faccio una famiglia? Chi non lavora? Chi non lavora? Sogno una casa bianca ed un giardino verde, domenica in famiglia col pranzo assordante, vedere il calcio su una TV gigante. E mi sento di là tutto il paese, se potessi avere 1.000 euro al mese, poche pretese, no politichese, più imprese giù nel bel paese. Quante spese ogni giorno ed ogni anno, senza lavoro sicuro c'ho l'affanno. Un anno fa e il papà ha detto bene, volevo se più bene e damo se da fa. Chi non lavora? Sì, me l'aspetto, oh, oh, oh. Chi non lavora, chi non lavora, non fa l'amore, sì, me l'aspetto, oh, oh. 110 lode in comunicazione, aspetto da 3 anni in concorso alla regione. Dal meridione parto ogni settimana, mando curricula anche a Radio Vaticana. Le posto al ministero e ai negozi della mia via. Lavori nero senza alcuna garanzia, determinato come il tempo del contratto. Quest'Italia è fondata sul misfatto. Voglio un tetto da comprare a rate, una casa mia con il mutuo ventennale, una macchina e via per le vacanze al mare. Una famiglia dove ci si possa amare. Chi non lavora, chi non lavora, non fa l'amore, non fa l'amore. Sì, sì, me l'ha detto. Tutti insieme. Avete capito bene, amici, chi non lavora non fa l'amore. La dura legge, dura lex, sed lex, diceva qualcuno. E allora che si fa? Quali sono le risorse per un povero in canna che cerca di arrivare alla fine del mese? Una danza propiziatoria, forse? Per adesso non mi viene in mente niente di meglio, perciò vada per la danza propiziatoria. Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, money, money, money, money, money, money. Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. And if they don't want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart, a hurricane's blowing, in my head, a clock ticks. Potato, get the money, pay the Eskimo. Schoolboys, schoolgirls, don't make funny. Take a deep breath, can't believe, 'cause I could not obey. Get the money, pay the Eskimo. Vero, tutto sommato, no, è che noi giovani veniamo sempre criticati, ah, sti bamboccioni fino a 30 anni, fino a 40 anni a casa da mamma e papà. Però quello che alla fine dovremmo cercare di fare noi poveri precari è dare fondo, insomma, appunto, come dicevo anche nella puntata precedente, alle nostre risorse, fare il possibile per trasformare questo stato precario in un'opportunità, invece che sentirmelo sopra la testa come una spada di Damocle, cioè il fatto di non sapere cosa farò domani, di non sapere poi alla fine quando potrò finalmente essere più stabile, ma forse non arriverà neanche mai questa stabilità. D'altronde ci tiene costantemente allerta, tutto sommato si riesce ad essere più creativi. Uno dice, che sa di questa, il contentino, no? Adesso sta trovando il contentino. No, in effetti devo notare che da quando è cominciata la mia avventura nel mare del post laurea, avventura cominciata un pochino in realtà, all'inizio è stato tutto un compra giornali per cercare gli annunci di lavoro, manda curriculum di qua, di là, di su, di giù, insomma, le solite trafile che conoscete tutti, tutto naufragato in vari stage, tirocini su, di giù, di sotto, di sopra, ah, che brava, sei tanto brava, finito stage un bel calcetto nel sedere, vabbè, a qualcuno è andata anche bene, per carità. Uno dice, lì per lì, sai qual è il problema? È che uno investe tanto in una cosa, no? E quando finisce cresce e non ottieni quello che pensavi di ottenere, ti prende uno sconforto, un buco dentro, perché alla fine uno inizia, no? Da tutta l'energia possibile e immaginabile, perché deve far vedere che vale, che qui, che là. Poi ti ritrovi con un pugno di mosche in mano, tanti bei complimenti, ok, ma con i complimenti non è che ci pago le bollette, nemmeno ci compro una casa, per cui alla fine lasciano il tempo che trovano. Io ho imparato tanto, penso anche che anch'io ho dato a loro qualcosa, un periodo di vita che potevo utilizzare facendo altro. Sentirsi dire, quando poi non ti vogliono pagare, dovresti pagarci tu a noi per l'esperienza che ti abbiamo fatto fare, pensa che fortunata che sei, ti vengono un po' i brividi, perché non è più il senso dell'investire di qualcuno su un giovane per poi inserirlo. E quindi decidere di, da entrambe le parti, rinunciare io ai soldi dello stipendio e loro comunque ad avere una persona già preparata per poi un futuro insieme, no? Qui è soltanto la cultura italiana dell'uovo oggi invece della gallina domani, per cui tu sei un uovo da spremere, spaccare contro le pareti, suggere fino all'ultima goccia e poi buttare via. Quindi ti scatta la rabbia perché dici: guarda che stronza che mi sono fatta mettere in quel posto il cetriolo per niente, e stai giù depresso che ti passa la voglia, eccetera. A un certo punto scatta anche la dignità e l'orgoglio, perché poi queste persone si rifanno vive quando hanno bisogno di te, perché ti vogliono offrire qualcosa che loro ti fanno credere che ti arricchirà il curriculum. Tu chiedi a quel punto: va bene, io però per fare questo devo rinunciare a un altro lavoro, magari di minor spessore culturale, ma che mi consente di vivere per questa cosa, per cui vorrei sapere giustamente, no, qual è la paga. Spariscono magicamente, puff, Silvan gli fa un baffo. Per cui, cari ragazzi, giovani d'oggi, su cui tanti sputano sentenze, mettetevi in testa una cosa, che alla fine queste persone, per carità, vi danno un'opportunità, ma voi dovete avere il coltello dalla parte del manico, non loro. Che significa questo? Non significa che voi comandate e che gestite voi la situazione, però di tenere bene a mente qual è la situazione in cui vi sentite bene, punto. Al di là di quello che guadagnate, al di là del prestigio sociale del lavoro che fate, al di là di... sto bene in questo posto, può essere un supermercato, può essere una fabbrica, può essere un ufficio, sembra una cazzata detta così, però è vero. Oppure stando facendo quelle piccole cose che non c'entrano un accidente con quello che volete fare nella vita, che però vi consentono il tempo libero scarso, però di dedicarvi alla vostra passione. Per dire, anche la radio che stiamo facendo qui è un esempio. Ecco, è un esempio in cui uno si riprende il suo spazio e dice: qui sono veramente io. Poi posso pure fare la cameriera, la donna delle pulizie, sti cavoli. Qualcuno vi dirà: ah, ma che fai? Fai solo... fregatevene. Il vostro obiettivo è stare bene. Per cui a me di inseguire ideali di carriera per poi annichilirmi appresso a un ennesimo dirigente che non sa quello che sta facendo, di impazzire, no. Basta, ho deciso, cerco di vivere alla giornata, anche se sembra stonato, ma unendo il dovere alle cose che mi piace fare, per cui non vi state troppo a tartassare, soprattutto non vi fate venire sensi di colpa come ho fatto io, ah sono fallito, ah. Andate avanti per la stessa strada e cogliete tutto quello che vedete intorno a voi. Adesso sembro il saggio indiano che si è seduto per farvi la morale, no, era solo così, un piccolo sfogo e la mia logorrea che ha preso potere. Ma il succo della questione poi sta tutto qua, nel fatto che ciò che conta sono i contratti tra le mani che arraffano tutto quello che possono, lasciandoci solo le briciole. Oh, world. Everything counts in large amounts. Everything counts in large amounts. Bene, questa lunga puntata sta volgendo ormai al termine e dopo il lungo pistolotto che vi ho attaccato su stage, precariato, eccetera, eccetera, eccetera, se siete ancora lì non avete spento la puntata mandandomi al diavolo, potrei concludere con qualche pensiero filosofico, non che io sia esperta di filosofia, anzi sono proprio una dilettante, però mi torna alla mente un brandello di pensiero sartriano ed è che l'uomo sarà anzitutto quello che avrà progettato di essere. Quindi la nostra responsabilità è molto più grande di quello che potremmo supporre perché coinvolge l'umanità intera. Dalla responsabilità, dalla solitudine, dalla libertà deriva all'uomo un senso di angoscia dato dal sentimento della possibilità. Quindi Sartre sa che la mancanza di prospettive e di certezze può portare all'inazione, ma vuole dimostrare che l'angoscia non comporta disimpegno. Sartre è convinto che l'uomo debba agire senza alcuna speranza, senza alcuna garanzia di veder realizzati con successo i propri progetti. Ciononostante spinge gli uomini all'azione ed afferma che non c'è realtà che nell'azione. Sartre accusa duramente tutti coloro che nascondono i loro insuccessi e le proprie negligenze dietro false giustificazioni e condanna chi si rifugia nel mondo illusorio di ciò che potrebbe essere stato e non è stato, per sopportare meglio le proprie disgrazie e sfuggire alla dura realtà. Un uomo si impegna nella propria vita, disegna il proprio volto e fuori di questo volto non c'è niente. La vita di ciascun uomo è soltanto quella che è, soltanto quella che egli ha saputo vivere. Il destino dell'uomo è nell'uomo stesso, ma Sartre aggiunge anche che l'uomo non può essere solo, perché l'uomo non può essere niente se gli altri non lo riconoscono come tale. L'altro è indispensabile alla mia esistenza, così come alla conoscenza che io ho di me. Queste piccole frasi mischiate in sequenza esprimono poi un concetto che tanti di noi magari dimenticano, e cioè il giustificarsi per i propri fallimenti in base alle circostanze esterne. Certo, in questo periodo attuale nel nostro paese di circostanze esterne ce n'è a migliaia. Nonostante questo non ci abbattiamo, non ci buttiamo giù, come un famoso libro di Nick Hornby, uno dei miei scrittori preferiti. Non buttiamoci giù, rimbocchiamoci le maniche e costruiamoci il futuro con quello che c'è. E visto che tanto noi dell'arte del riciclo sappiamo fare una virtù, ricicliamo frammenti di vita e trasformiamoli in qualcosa di bello. Una volta stavo per iniziare a vedere un film e c'era una casa di produzione americana che si chiamava, adesso non ricordo come, ma aveva come sottotitolo questo slogan: Turning Dreams into Drama, trasformare i sogni in dramma, in un racconto drammatico. Bene, noi possiamo invece fare Turning Drama into Dreams, trasformare il dramma in sogni. Con questo vi saluto, spero di non avervi ammorbato troppo e vi lascio con un ultimo brano che è tratto dalla colonna sonora di The Millionaire, un bel film che so che devo andare a vedere al più presto perché ancora mi manca,